che pensa Gesù di noi? Questo. Che cosa vuole Gesù da te? Questo. Che cosa desidera? Che cosa ha in mente? L'obiettivo che Dio ha con te, con me, con noi, è questo. E dice, ma proprio le pecore, ma proprio le pecore che sono ritenute degli animali scemi, diciamolo, no, poco intelligenti, ecco, lo diciamo più diplomatico. Perché noi come siamo ritenuti dagli altri? Eppure, sapete una cosa, è vero che dobbiamo lavorare un poco di immaginazione, perché ormai greggi non se ne vedono più, i giovani nemmeno forse, ci sono che non hanno mai visto un gregge con un pastore, non in televisione ma dal vivo, vedi che ce ne sono. Tu stai in mezzo, sei montone, come fai a vederlo? È reale, dobbiamo lavorare di immaginazione, ma sapete che questa è l'immagine, è l'esempio più appropriato, più forte che Gesù poteva fare della sua Chiesa, di me e di te. Non c'era esempio che calzava a pennello più di questo, per tanti e tanti motivi. Uno, per esempio, per l'unità, la Chiesa è famiglia, noi diciamo che siamo famiglia del Signore, l'unità, l'appartenenza come fratelli e sorelle. Sapete, le pecore, quando sono nel gregge, non vengono attaccati dal lupo, perché il lupo vede un corpo unico e il lupo sta al margine del bosco aspettando che una di queste pecore si allontani, si tolga per poi attaccare quell'unica pecora, ma non si permette mai di attaccare tutto il gregge. L'unità, il frutto è l'insieme che porta frutto, una sola pecora porta sì frutto, ma non serve a più di tanto. Ma il gregge porta, cioè che cosa non si usa di una pecora? Ogni cosa. Vedete quanto frutto porta. E così possiamo continuare anche con noi l'essere famiglia, la protezione, tutto quanto. Gesù non poteva trovare un esempio migliore per illustrare che cosa pensa e che cosa si aspetta lui da ognuno di noi. Ma la storia che andiamo a leggere, che Gesù ci ha raccontato riguardo a questo, è sì del gregge, ma leggermente differente. La vogliamo leggere, la leggiamo nell'Evangelo di... È una storia non conosciuta, ma straconosciuta. Anche chi non legge la Bibbia, che fra di noi non ci sono che non leggono la Bibbia ogni giorno, giusto? C'è qualcuno fra di noi che non legge la Bibbia ogni giorno? Nemmeno una mano. Luca capitolo 15, dal verso 1 al verso 7. Vito, mo, mi raccomando, trova presto nell'iPad, non perdere mezz'ora che l'ho finito di leggere. Dov'è Vito? No, Vito Frisone, se ne è venuto col grande iPad, hai capito? Allora, non lo so dov'è, va bene. Tutti i pubblicani e i peccatori si avvicinavano a lui per ascoltarlo. Ma i farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola. Ascoltate. «Chi di voi, avendo 100 pecore, se ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e non va dietro a quella perduta finché non la ritrova? E trovatala tutto allegro se la mette sulle spalle e giunto a casa chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Ascoltate, vi dico che così ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. La pecora, e il titolo è La pecora smarrita. Però il fatto importante non è tanto che la pecora si è smarrita, poi lo andiamo a vedere, ma che il pastore la va a cercare sempre, sempre, sempre, sempre. Lascia le 99, ma veramente lascia le 99 pecore? Perché si permette di lasciare 99 pecore per andare a cercare una smarrita? Perché quelle 99 formano la compattezza, formano quello corpo unico che anche se arriva il lupo loro non si distaccano e vincono, non li lascia soli, sa quello che ha costruito con quel gregge. Però la pecora, una pecora, sì, ecco l'immagine, vedete, ho voluto prendere questa, perché quella lì, la vedete, questa? Un po' se ne sta andando per i fatti suoi. Mo, noi non facciamo nomi, metti il nome che vuoi, va bene? Perché? Logicamente che noi facciamo l'analogia fra l'esempio di Gesù, perché Gesù non ha fatto quell'esempio per parlare delle pecore, ma per parlare di te e di me. Allora, facendo l'analogia fra quello che è l'esempio di Gesù e quello che viviamo noi, ci dobbiamo domandare perché ci si perde. Io ho trovato alcune motivazioni che vedremo velocemente questa mattina. Il primo, perché quella pecora cerca l'erba più verde. Quella dice: qui vedi c'è sovraffollamento, troppi, io so posti migliori, io so dov'è l'erba migliore per me, me la vado a cercare. Ma voi pensate che il vero problema di quella pecora è perché vuole erba più verde, che vuole erba forse più fresca? No. Il vero problema di quella pecora, sapete qual è? La mancanza di fiducia. Il non avere completamente fiducia nel pastore. Il non credere realmente, il non credere veramente, non credere fino in fondo, fino alla fine, che quello che il Signore ci indica, quello che il Signore ci chiede, è il meglio per me e per te. Quello che il Signore ti chiede non è sacrificio, non è sofferenza, sudore e sangue, è il meglio per te. Anche se può sembrare, a prima vista che è, può sembrare doloroso, faticoso o come noi vogliamo vedere, ci indica sempre il meglio. E sappi una cosa che è importante per tutti quanti noi: che non c'è erba più verde, perché dove ti ha portato il pastore è già l'erba più verde. E può darsi pure che da qualche altra parte ci sia un buco di erba più verde, ma è pericoloso, non ti ha se il pastore non ti ha portato, vuol dire che quell'erba non è adatta a te. Dove ti ha condotto, dove li ha portati, là è l'erba buona per loro. Allora la soluzione qual è? Quale diremmo come soluzione? Non i mille espedienti, per esempio quella pecora una volta che si è allontanata dice me mo che è pericoloso, fammi riavvicinare. Non è la soluzione, fammi ritornare nel gregge, non è la soluzione. Oppure il pentirsi, fare mia colpa, pregare, leggere la Bibbia, non è la soluzione. Va molto bene, non mi prendete alla lettera. È chiaro? Va molto bene questo. Ma la vera soluzione, quello che risolve veramente, è fare sviluppare la fiducia. Perché tu ti puoi pure riavvicinare come pecora, dici no, non devo lasciare. Però dopo 10 passi dici fammi andare a trovare l'erba verde. E dopo il primo problema con gli altri fammi andare a trovare l'erba mia. Ma se sviluppi fiducia nel tuo pastore e la fai crescere, sviluppare fiducia, la fiducia non è qualcosa di semplicemente innato che noi abbiamo, va allenata, va sviluppata, va stimolata, va fatta crescere, va presa da tutti i lati. Sviluppa fiducia. Romani, vedi, infatti Romani al capitolo 4, verso 8, credo, dice credere. Allora è vero che non leggiamo la Bibbia ogni giorno? Sperare, timidamente lo sperare contro speranza. Sperare contro speranza, che cosa vuol dire? Che proprio quando non c'è più speranza io devo allenare la mia fiducia, perché il Signore ha il meglio per me. Quando va tutto storto, che penso che il Signore mi abbia abbandonato ed è lontano da me, proprio in quel momento io devo accrescere, devo sforzarmi, devo camminare per far crescere la fiducia nel pastore, perché lui ha il meglio per me. Dice, come si fa? La parola di Dio è molto, sentite, la parola di Dio è molto semplice. Non mi venite a dire non la capisco e non così. Sai quando non si capisce la parola di Dio? Quando non la voglio capire. Quando sento da un orecchio e l'altro mi diventa sordo. Dici, ma non ho capito bene bene. Vedete come, vedete la parola di Dio, quello, mandiamo Filippesi, il passo di Filippesi, e vedete come il Signore indica per far crescere la fiducia dentro di noi. Molto molto semplice. Non è che devi pregare e spenderti sulle ginocchia e mettere i cici sotto per fare la penitenza e quello che vuoi. È molto più semplice. Quindi, fratelli, a tutti quanti noi, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri, l'allenamento. Siano oggetto dei vostri pensieri, l'esercizio. Le cose che avete imparate, ricevute, udite da me e viste in me, fatele e il Dio della pace sarà con voi. Sapete che cosa dice Paolo? Se non volete credere a queste parole che le ritenete troppo alte, va bene che li tenete troppo spirituali, troppo oltre la nostra portata, allora dice guardate a me. Io ho fatto peggio di voi e più di voi. Però fate come io faccio adesso e vedete che viene la vittoria fuori. Questo è quello che il Signore dice. Il secondo aspetto che noi andiamo a vedere del perché ci si smarrisce, e questo vale oggi per tutti noi e per me. Gli altri. C'è di nuovo l'immagine delle pecore? Gli altri. Ma perché devono mangiare dove mangio io? Oh, vanno a mettere il muso esattamente dove lo metto io. Poi, dulcis in fundo, il pastore, quello lì, il pastore sta pure a guardare e vede quello che succede e non mi difende, nemmeno il Signore mi difende. Qual è il problema vero di quella pecora? Qual è il problema vero di quella pecora? Gli altri? No. La solitudine, l'aver subito ferite di accettazione, di comprensione, l'aver subito e ancora continuare a subire il non essere considerati dagli altri ti fa sentire solo. È solitudine, e devo vedermela da solo, da me. Quando tu incominci, questo è il campanello d'allarme, quando tu incominci a dire, quando tu vedi dentro di me, dentro di te, e dici, devo vedermela da me, quello è pericoloso, perché stai vivendo solitudine. E la solitudine ti porta lontano dal gregge e non ti porta sotto la protezione del pastore. È un poco come la storia che tutti quanti noi conosciamo, la storia di Marta e Maria. Un po' di più potevano rispondere, pure per finta, andava lo stesso bene. Conosciamo la storia di Marta e Maria, la raccontiamo breve a parole nostre. Marta aveva una sorella che si chiamava Maria, e Marta, che era più quella che si dava da fare, invitò Gesù a casa loro per mangiare insieme. E allora che cosa accadde? Che lei incominciò ad andare a preparare i cuscini dove si doveva sedere, a scopare veloce per terra, a nascondere sotto il tappeto tutta la polvere, a mettere a posto tutti i piatti non lavati, a metterli sotto, e incominciato a cucinare. E a un certo punto gli scendevano le gocce di sudore. E incomincia a pensare a quel momento. Oh, è solo io sono. E mia sorella dov'è? E mia sorella dov'è? E andò dal Signore. E disse, Signore, è quella svampita che sta qui ai piedi tuoi. Non è buono che gli dici che mi viene a dare una mano, così mangiamo prima, così viene più buono. Solitudine. La soluzione di Gesù? Che cosa disse Gesù a Marta? Chi è che se lo ricorda? Ricordiamo solo le due paroline, che è Marta, Marta. E poi? Ha scelto non per le cose che passano, ma per le cose che rimangono. La soluzione che Gesù dà a quando noi viviamo solitudine interiore è scegli. Devi scegliere di prendere in considerazione non quello che stai vivendo, non che il lavoro non va bene, non che la famiglia, che i figli, e non che i genitori, che la scuola, che la bocciatura. Sono tutte cose importanti e vere. Ma scegli le cose che rimangono, che danno la pace e la gioia, e lì viene la soluzione. Ora andiamo, devo andare velocemente verso la conclusione, e sappi ancora che il pastore sa dov'è l'erba verde, fidati. L'ultimo aspetto, veloce, perché ci perdiamo? Perché seguiamo le nostre passioni, i nostri desideri. La pecora si smarrisce, perché? Perché va in cerca di quello che più gli piace, che sembra più bello, e può essere anche bello, quelli che sono i nostri desideri, le nostre aspettative, le nostre aspirazioni, quello che noi desideriamo più di ogni altra cosa, eppure è bello, ma la domanda è: dove porta? Se tu ogni volta che hai un desiderio, un'aspettazione dentro di te, un'aspirazione, chiedi dove mi porta? Dove mi porta? Mi porta a fare le stesse cose che il Signore ci dice. Perciò noi dobbiamo, ecco, questo può essere la risposta per noi, verificare tutti i nostri interessi, verificali e vedi, coincidono con quello che il Signore vuole da noi? Se non coincidono, c'è lo smarrimento. Se non coincidono, stai seguendo qualcosa che ti porterà sì pure la soddisfazione momentanea, ma alla fine sarà sofferenza e lontananza. Voglio concludere proprio con una frase finale, perché così possiamo passare, perché quelli tre stanno... non vedono l'ora, dice questo con le pecore, noi dobbiamo fare il battesimo e questo ne va con le pecore, va bene, è molto bello, ed è proprio quello, ma che bello che sono, che belli che sono. Ruben, qual è il significato del tuo nome? Va bene, è bello, è bello. Non dimenticare, anzi, io ve lo voglio illustrare questo con un'altra immagine conclusiva. Se viene l'altra immagine conclusiva, io vi vedete? Questa, dovete immaginare, è una statua del terzo secolo, cioè 300 anni dopo Cristo, quando la Chiesa di Cristo era ancora viva, non adorava le immagini e per riconoscersi avevano alcuni segni, avevano il segno della croce, non che si facevano il segno della croce, ma lo disegnavano, avevano il segno del pesce, che vuol dire figlio di Dio, avevano come segno il buon pastore, ne facevano le statue. Questo è del terzo secolo e quando uno voleva raffigurare che era credente, che era cristiano, dicevano anche andiamo dal pastore. È bello anche questa immagine. Vedete, però io termino dicendo, ricorda una cosa. Che il buon pastore, che il Signore, ciò che porta sulle spalle è la pecora smarrita. Lui va sempre, sempre in cerca. Noi ci possiamo sbarrire in mille modi. Gli esempi che abbiamo fatto sono degli esempi che li viviamo semmai nella famiglia, nel lavoro, con gli amici. Ci smarriamo in quei sentimenti e in quei pensieri e il Signore è sempre lì a cercarci per prenderci e portarci laddove il posto meglio per noi, laddove l'erba è veramente più verde. Amen? Vogliamo alzarci in piedi? Signore Gesù, noi vogliamo dirti grazie per quello che tu sei per noi, quel pastore che sempre ci cerca in ogni situazione che viviamo e che mai, mai punta il dito, ma sempre che ci porti guarigione e salvezza in ogni situazione. E questo io chiedo per ognuno di noi questa mattina. Probabilmente diversi di noi hanno compreso qualcosa riguardo alla propria vita, al proprio modo di agire, al proprio porsi davanti alle situazioni. Signore, crea guarigione, crea salvezza, oh Signore. Prendici con te affinché noi possiamo formare quella Chiesa Tua che Ti glorifica e Ti santifica. Grazie Gesù. Amen. Amen.